capito, mi era sciolpito un attimo, apro gli occhi ed ero contromano. Adesso ritorno a Olbia, cazzo, ma è la Sardegna, mamma mia, tosta, eh. Lo so, non c'è niente qua, se no avrei cercato qua, ma non c'è niente. Poi, vabbè, siamo in un, come si chiama, in un buco di casa, in quattro. Aiuta. Cosa abbiamo dato alloggi proprio? Adesso te ne dico una. Allora, un amico doveva partire qualche anno fa a fare lo stesso una stagione, no? Sempre in quei posti là, esotici, tra virgolette. Sì, vitto, alloggio, compreso. Allora, l'alloggio era poco più che una grotta, una roba non abitabile, una grotta, una cosa schifosa, senza finestre, sembrava una specie di scantinato dello scantinato. E lui ha detto no, queste condizioni no. Tipo le catacombe di Piazza Castello, mi hai presente? Se avete presente, no? Una cosa orribile, una grotta era. Oh, sto uscendo? Ho bruciato tutto? No, stai uscendo, Marco. E quindi già, certe volte quando vai a fare queste stagioni ti rimettono, cioè non sono condizioni umane vivibili, oppure ti mettono tipo carnaio in 40, tra virgolette, in una stanza, non è possibile, in locali proprio malsani che non sono adatti a ospitare, ma non 10 persone, neanche una. No, Marco, mio figlio l'anno scorso l'ha fatta, gli hanno dato una villetta di quelle a schiera ed erano in tre, mi pare. Cioè, però c'aveva un sacco di camere, capito? Era una bella villetta. Io sono entrato anche dentro, vabbè, un casino che non veniva bene a dire, sembrava un campo di concentramento per come stavano gli altri, quelli di Cagliari, erano disordinati. La stanza di Marco già era ordinata, ma quelli di Cagliari e della zona di Cagliari erano, buttavano tutta in terra, sui letti, da tutte le parti, i letti disfatti, boh. Tipo camera mia. Quando sono andato a prenderla, Marco, sono salito su per aiutare a prendere le valigie e praticamente ho visto tutto l'ambaradà. Minchia, allora non sono il solo a essere disordinato. Poi mio cugino mi aveva detto che i peggiori compagni di stanza sono tipo i portoghesi. Lui ci ha avuto un portoghese come compagno di stanza, ma sporchi, pisciava fuori dal water, animali. Quindi sono primitivi brutti. Comunque lui, da tutte le parti ci sono le cascette, anche dove lui io c'era, a me addirittura una volta mi hanno fotografato perché ho rotto una bottiglia di birra e da dietro mi hanno fotografato e l'hanno portata su un ufficio per farglielo vedere, figurati lui. Gianni, io ho avuto un piccolo assaggio dell'ambiente che c'era da te, hai capito perché ho preferito, meglio niente. Ci sono un bel di cascette di gozzi, bacari dai, lecchini, poi vengono l'ambacciati a Natale e cose, ma attillanti, puzzinosi. Adesso su Facebook, ma con quelle caponegozze, ma con le cago, perché erano lecchine tutte e due, andavano, e addirittura una se n'è andata perché ogni volta li controllavano il banco frigo che doveva controllare le scadenze, una volta gli hanno trovato una cosa scaduta, invece le è sfuggita, l'hanno portata su, gli hanno fatto un cazziattone, l'ho trovata piangendo, ho detto cosa c'hai? No, basta, me ne vado, non ce la faccio più qua, se n'è andata via. Per una cosa, pensa, per una singola cosa, invece in certi market usano il trucco di rietichettare la roba scaduta, lo sai, dove c'è la scadenza vedi un'etichetta con una scadenza nuova, poi vai a vedere in trasparenza contro luce, no, o la stacchi e c'è la sorpresa, non ci fanno nomi, già c'è questa di mammoiata che io non riesco a, come si dice, a dialogare, a legare con questa, mi capisce, proprio zero, parla sempre in sardo, si fa capire. E adesso ne è arrivata una di Sassari con noi, perché lì non gli piace il posto in sé, siamo in galera lì già, siamo in galera perché come si dice, tutto pieno di telecamere, un casino, stiamo un bel attento. Vabbè, adesso non c'è nessuno, ormai come inizia la stagione bene bene, mai sarà meglio, ma ora come ora, per carità, qua, poi il turno di notte, un incubo. Purtroppo i soldi bisogna sudarseli e vedere dove va. Anche io già ne ho fatto di sacrifici, come tutti, dai. Adesso ti fai la birra. Lo so già, resisto, sti ingredienti, come si dice, vado avanti. Fino a ottobre, e poi una volta che finisco mi prendo la disoccupazione. E per un po' mi rimango a riposo. E poi cerco qua, non ne faccio stagione, è pesante la stagione già. È pesante. E poi già dal fatto che stai in casa tutta quella gente, no? No. È stato almeno un'ora a castello mio. Cioè con la rete a molle, no in doghe, a doghe, a molle. Dormo malissimo. Marco non le vuole più fare, perché proprio perché c'era già in Italia, quelli di Cagliari della zona di Cagliari c'erano dei bastardi che stavano sempre li comandando, facendo, diceva, detto un giorno, ma scusa, tu sei come me, cosa stai comandando? E muovi, ti fai qua, là, bumba. Stavano sempre così dicendo cosa, perché erano i due o tre di Cagliari. Ma pure no, ce ne sono, allora, il padrone proprio, quello che comanda, si chiama Angelo, una persona in gamba, di Nuoro, poi il responsabile di Nuoro, altri tre colleghi sono di Nuoro, provincia di Nuoro, c'è anche Tiziano, c'è anche lei di Ovolta, provincia di Nuoro, e siamo io a questa qua di Sassa e uno di Cagliari, che oggi mi stavo mezzo per attaccare stanotte, cazzo, cioè non è prepotente, è tutto lui sa. Fai due anni più piccoli, ma mi pare il nonno. Si riporta un po' male gli anni che ha questo qua. Comunque, tutto lui sa. Ma non te fare così, ma non te fare così. Fai così, cosa vuoi da me? Io faccio a modo mio, tu fai a modo tuo. Cazzo, mi stavo veramente urtando stanotte. Ma questo è il responsabile? No, questo è un operaio come me. E la madre ce l'ha cagata. Da appena arrivato, ma dove cazzo vuoi andare? Quante ne ho sentite di situazioni simili? Devi camminare con Brigliotti, non dare retta a nessuno, fai quello che devi fare, il tuo dovere e basta. Io facevo così alla fine, poi perché ho capito com'era. Sì, infatti faccio quello che devo fare. Poi se non è fatto bene te lo segnalano. Poi Luca, le stagioni vanno bene quando sei tipo ventenne, però poi a una certa età comincia veramente a pesare mi sul fisico. Rosso, no, per me è scosta. Io non voglio lavorare, proprio quando è così non lavori in armonia, capito? Poi quando funziona così, no? Io adesso faccio 15:30, 23:30, sono 8 ore, stacco, ok. Se magari chi entra dalle 23 e si fa la notte e vede qualche anomalia strana, io ne ho visto tante, tipo mancanza di un rotolo di carta igienica nel bagno, oppure un rubietto non pulito bene, te lo segnalano. Invece io quando le vedo lo faccio e non segnalo niente, perché non sono carogna come loro. Ehi, avete parlato prima in due, ovviamente è passato Luca. Gianni, ripeti. Io sto andando via, dai, sto andando giù a portare il cane. Ci sentiamo, buona serata di nuovo e buona continuazione. Lui stringe i denti e tanto già passa in fretta il tempo. Marco ha fatto la stagione, l'ha fatta in un albergo stellato, era un 5 stelle. Infatti gli hanno rilasciato anche un buon curriculum, però lui era cameriere, non faceva pulizia, era cameriere nel locale. E adesso, come lo vedono il curriculum, nei bar, da tutte le parti, ci dicono che è un buon curriculum, capito? Infatti sto facendo un curriculum già, anche se ho 50 anni, però finché riesco, che mi permette di lavorare lo faccio. Anche io chiudo, Marco, vado a prendere la mia compagna che devo uscire. Ci hanno invitato. Non mi ricordo come si chiama, praticamente la comare è incinta, non si sa se maschio o femmina, non mi ricordo come si chiama, fatti un tipo di festa, boh. Allora ciao Gianni, buona passeggiata, ciao Luca, buona passeggiata, vai da Tarì. Ciao ciao. Ciao Luca, ciao Gianni, alle cruci. Mamma mia come sto. Come stai? Seduto. Sì, anch'io mi. Questa posizione qua, allora, a fianco al baracchino, no? Il divano a fianco al baracchino. Io quando mi siedo qui, anche prima di cucinare, mi siedo un attimo. Mamma mi ha trovato, sembrava morto, invece era assopito qua. Non so cosa c'è, se c'è qualche gas soporifero che è sprigionato dal baracchino. Ma qua proprio ti concilia il sonno, mi. Sì, infatti. Oh, yeah. Io invece sono... No, non riesco a dormire dai dolori, uia, neanche la notte. Nemmeno la notte, ma così è brutto, ma stai prendendo il Brufen. Ricordati magari di non abituarti troppo allo stesso antidolorifico, perché poi fa sueffazione e non ti fa più effetto. Dovresti cambiare antidolorifico, il principio attivo. Sì, già lo so. Sempre che sia compatibile appunto col tuo fisico, no? Perché per esempio non so, quello che conosco io prende occhi con le bustine, occhi io lo chiamo bocchi di. E dovrei avercelo anche io quello lì, ma non so se ce n'è. Hai cenato almeno? Sì, tutto fatto. Cos'è, abbioccando ti stai? Un sabato statico è stato, ieri almeno mi hanno fatto un po' di roba. E la scarpinata che abbiamo fatto, cioè un percorso da capre, non credevo di riuscire a fare una cosa del genere. Stavamo controllando una cosa, vabbè, poi te ne parleremo in privato. Ma io come ho visto tutta la montagnetta, ho detto no, io non ce la faccio ad arrivare lassù. Invece ce l'ho fatta, come? E vedi. Ma siamo stati tutta la sera camminando, sia all'andata e poi ritorno anche. Però in salita credevo di non farcela. Invece poi dopo il primo impatto iniziale vedo che il fisico si è adattato, anche il cuore ha rallentato, insomma, è questione un po' di abitudine, cioè che io sono disabituato, cioè. E infatti, tu che puoi camminare, cammina che fa bene. E poi l'aria era pulita, eravamo fuori sassa, insomma, bella panoramica. Ok. Lì, quasi da chiudiamo, credo che siano le 8 passate, le 8 e 10. Adesso sempre organizzerò qualcosa per la cena, mi scelgo un film per la sera, frugo tra le mie chiavette, vediamo se mi è avanzato qualcosa di passabile. Sì, vabbè, dai, ce la chiudiamo, tanto sono le 8 e 10. Ci sentiamo alle prossime, ciao Marco, che anch'io adesso faccio qualcosa qui. Ehi, buona serata, buon tutto e ci sentiamo, ciao. Ciao, saluti in casa. A 380.